dove il mare luccica e dove tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto bene sai. E scioglie il sangue d'inti bene sai. Vedere luci in mezzo al mare, il sole notti là in America, erano solo le lampare, la bianca scia di un elio. Senti il dolore nella musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola gli sembrò più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, le occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto bene sai. E una catena ormai che scioglie il sangue di te. La potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica, sai, puoi anche diventare un altro. Così, così diventa tutto piccolo, anche le sole notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un elio. Te voglio bene assai, ma tanto bene sai. E una catena ormai che scioglie il sangue di te. Sure.